Frigo, e nel frigo ho preso ben poca gente. Ecco, poi con il nanometro, quando lo so, lei mette una piccola batteria indipendente, ma neanche grossa, se proprio vuole avere la certezza, buonanotte, per telefonare. Non consuma niente, è silenzioso, neanche si sente, perché con i trivalenti, quando te lo carichi la notte, te lo tieni in carica la notte, a 2:20, così domani ce l'avevi quello che è fresco, e poi durante il viaggio lo rimetti a 12, e quando sei fermo, con gas, però non ha la stessa cosa. Sono di tutte le misure, non so quanti litri lo vuoi tu, ci sono da 100, 150 litri, 70 litri, 40 litri, il mio mi sembra sia 55 litri, e per due persone ce li regalano, poi ci sono i viziosi che se vanno a portare, non trovano a scortare il cibo di una settimana, allora non funziona così, le gambe, ti prendi le scorte e vive, poi ai giorni, poi vai e ti fai di nuovo la spesa e la rimetti, non è che ti devi fare il carico di roba dentro il frigo, non sei a casa che c'è il buffetto, poi potevi anche un pochettino organizzare, il mio è 55 litri. E anche piccolo, perché ho dovuto prendere di quelle dimensioni proprio per questione, doveva stare sotto il letto e a scorrere, c'è il carrello, io ho fatto un carrello, lo tiri e si apre dall'alto, oppure c'è il classico cassetto tipo il frigo, quelli che ci sono nei bar, li hai mai visti, ma il frigo al cassetto così, quello mio si tira fuori e poi c'è il coperchio tipo un frigo da mare, lo apri, oppure ci sono quelli classici a cassetto, quello in fili che tiri in acciaio inox e c'è il corso. Abbiamo fatto dell'amicizia, ho fatto diverse, c'è un amico che lui li affitta nel lotto di questi mezzi qua, ma si sta facendo loro. Cosa cambia in casa a parte l'anno scorso per il Covid? Ma l'estate scorsa, da parte da aprile, perché vengono tutti questi paesi nordici, olandesi, svedesi, soprattutto olandesi, dove quello c'ha il pacchetto, gli dà una settimana, ma se ti dico cosa gli affitta, tutti spaventi, poi c'ha le biciclette elettriche, gli danno il pacchetto, e invece sono tutti questi formulati, malati, ne hanno 7-8 tutti formulati, Citroën, Peugeot, Opel, eccetera, eccetera. Si affitta anche al suo personale, cacca, tu devi vedere cosa gli vende questo, ma cifre la pompa, si sta facendo ricco. Sì, Thank you. Thank you. 15. Va bene, però ancora sta la roba di freddo. Sì, riprende, riprende, vabbè, ho fatto male solo la cioè, basta, non serve niente. Si è accasciato, sono tornato con te a casa, ho detto non sto mandando su WhatsApp. Non è quello il problema. Il problema è capire che motore bisogna mettere. Tutto Sì, sono un po' di vincere, lo sapete. con un Signore, non ci sono più, signore. Non ci sono più, signore. sognare, ma poi Fabrizio ha intanto. Vieni avanti. Ma sì, anche se è scomparso la telecamera. Aspetta un attimo, anche io ricordo di studiare. Pronto? Ma poi sì. Per me è sempre un segnale quello, cioè di chi entra, non cambia, non c'è mica fa niente. Io ti sto parlando quello. Quello è il suo libro francese. Ma se sono là, poi può dire che sono di porto, Devi controllare la posizione, no? E poi mi chiami. Vabbè, va bene, adesso lo vedi, dovrà fare così. Tu prometti, tu prometti. Sarà la telecamera con il tiro. Vabbè, io rappresento se tende a salire, o passi per la terra. Posso seguirlo sotto, ma credo di sì, perché se non sbaglio da Papa penso che sia sempre anche Papa da lì. Non lo so, Claudio, può saperlo questo, solo Claudio. Non so se questa cosa non mi faccio. Non sono capace. Beh, niente, sto chiudendo, ma ho detto te. Allora Fabriaia, sì che ho messo il telefono. C'è ancora Papa, no, Papa in famiglia. Mai. Capito, c'è la lunga ancora la lunga. Niente, non cambia niente, magari. Allora, ciao Fabrizio, ci sentiamo, ciao ciao. Dopo che vedo anch'io, Che volevo girare, sono entrato al lavoro. Quando giravo ti ho mangiato il microfono. Allora, non io vedo un pallone grandissimo, perché non ho sempre mangiare pizza, non ho voglia di mangiare. Ma è un passaggio che noi siamo visti con Papa, Ma è un passaggio. E niente, come da poco ho parlato con Papa, non mi parla, non va bene. Ci sentiamo, ciao G, buonaci e buona carica per domani, fai proseguire. Ciao Luca, se ci sei ancora, che io devo fare i sopralluoghi, vi ho un po' PC e poi...